Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Cosimo Bosco, regista del film Fin qui tutto bene? Al cinema da giovedì 11 settembre 2025. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno a tutti. Come lo presenteresti? Come innanzitutto un momento per ricordare purtroppo del tempo del Covid e della violenza che ha avuto sulle vite un po' di tutti e soprattutto un'occasione per sottolineare che durante quel periodo non ci sono stati soltanto dei danni fisici prodotti dal Covid ma soprattutto mentali, quindi questa è una storia che tra il genere thriller e drammatico si riferisce proprio a quest'ultima evidenza, quindi ad una famiglia che per la paura del Covid è costretta a vivere una bruttissima esperienza. Di conseguenza è un film che intende dare forza, se possibile, a chi può ritrovarsi in una situazione simile, chi magari ha bisogno di un abbraccio, di una carezza, anche guardandola attraverso il dolore. Com'era nato tutto? È nato tutto da me perché io sono la prima vittima di questa tragedia. Non è una storia biografica, ma questo impulso è nato proprio purtroppo dalla perdita di mia madre per questi motivi qui. Quindi è stata in prima battuta una volontà catartica, possiamo definirla così? Su quali elementi hai voluto centrare? Fondamentalmente quello che succede a chi resta, soprattutto quello che succede a chi è rimasto nell'epoca del Covid. Quindi un film che parla non tanto di ciò che ha portato una vittima del Covid a suo modo a compiere un gesto definibile estremo, però è quello che succede dopo. In tanti film noi vediamo tantissime persone che muoiono, ma non vediamo mai quello che succede ai loro cari. È il percorso che sono costretti ad affrontare, che è un percorso non semplice, pauroso tante volte, è paragonabile un po' a sentirsi affogare, provare a tendere già una mano fuori dall'acqua è molto faticoso. Com'è stata la scelta degli attori e delle attrici? È stata semplicissima perché gli attori con cui abbiamo lavorato dal primo all'ultimo sono stati veramente fantastici per me, sia per una questione tecnica sia emozionale, perché mi hanno dato un supporto non indifferente. In questo voglio dire anche il maestro Maurizio Mattioli. Tra tutti è stato per me incredibile, sia a livello umano, sia per l'interpretazione che ci ha dato, che non è forse usuale dei suoi ruoli soliti, ma sono stati davvero tutti fenomenali, anche Roberta Garzia che ha interpretato il ruolo della madre, così come Francesco Isasca, il protagonista, e Marta Moschini, la sua fidanzata. Ma tutti, Maurizio Siano, Mirko Marcelli, Simone Moretto, sono stati veramente fantastici. Ce ne sono altri, mi dispiace non nominarli tutti, ma ne approfitto per salutare davvero tutto il cast e anche tutta la troupe. È stato un film veramente sentito da tutti. Che tipo di distribuzione avete scelto? Usciremo nei cinema UCI e per altri cinema sparsi per l'Italia, saremo nei pressi anche di Salerno, io sono originario di Salerno, quindi saremo anche in alcuni Maximal, poi speriamo di allargarci via via dicendo, speriamo che riusciremo a ottenere una buona visibilità. Io credo tanto in questo film, credo tanto nel potere della solidarietà e del cinema stesso. Ci dici anche qualcosa del tuo percorso cinematografico che ti ha portato a questo film? Questa è la mia seconda regia ed è la mia prima opera scritta di sceneggiatura. Sono stato regista di Avancers, che è un film di tutt'altro genere, tutt'altro stile, un film tendenzialmente parodico, comico. E prima ho studiato cinema, sono partito da molto più giovane, da verso i 17-18 anni a studiare in via amatoriale. Proprio nel 2019, quindi proprio nel momento in cui il Covid iniziava ad aggirarsi tra di noi, ho iniziato a studiare cinema per poi prendere parte a diversi set, ho svolto diversi ruoli in diversi reparti prima di arrivare ad avere la fiducia poi del mio produttore. Ne approfitto anche per salutarlo e ringraziarlo, Salvatore Scarico. Direi mi sono un po' sporcato le mani. I riferimenti web per saperne di più sul film? La pagina Meccanismo Film, che è la produzione del film Fin qui tutto bene, su Instagram, o anche il mio profilo, volendo, cosimo.bsc, sempre su Instagram. Il film Fin qui tutto bene, al cinema da giovedì 11 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cosimo Bosco. Alla prossima! Arrivederci, un saluto a voi! Con Sandro Torella, regista del film Discesa Libera, al cinema da martedì 9 settembre 2025. Ben trovato. Buongiorno, ben trovato a te, grazie. Ce lo presenti? Discesa Libera è un film che nasce da un cortometraggio che ho girato nel 2019 su questo tema che io al tempo non conoscevo, così casualmente l'ho voluto affrontare, approfondire. E scrivo, faccio questo corto in vertical movie e poi da lì mi è rimasta insomma il desiderio anche con l'attore Massimo Milani di farlo diventare prima o poi un lungometraggio. È sempre difficile passare insomma dai corti al lungometraggio, mi veniva da dire al cinema vero, forse esagero, però insomma ecco, il lungometraggio è chiaramente un'altra cosa. Capita dall'occasione con la Fondazione Melchiorri che mi ha chiesto di fare la comunicazione per il loro progetto Rete Prevenzione Alzheimer, un progetto che si propone di mettere insieme le famiglie, dunque gli utenti e dall'altra parte le strutture, le cliniche, gli ospedali, le RSA o anche i professionisti, toccando il discorso della medicina convenzionale, la sperimentazione, quella non convenzionale, insomma un po' tutto, visto che i numeri sono numeri importanti per quanto riguarda questa malattia, che è una malattia che tocca la memoria, tocca l'identità della persona. Dunque la gravità della malattia non sta soltanto nel fatto diagnostico o di comportamento, ma sta proprio nel fatto che nel rapporto all'interno di una famiglia non ci si riconosce più. E allora lì ho intuito che il discorso sulla memoria nel lungometraggio potesse essere la chiave di tutto. E allora ho chiesto alla fondazione di aiutarmi a fare un film. Mi hanno guardato male, nel senso non capivano se scherzassi o meno. Dicono, fidatevi, ci riusciamo. Insomma, ho messo in piedi questa cosa e siamo riusciti a fare un lungometraggio che parla dunque della memoria, e anche visto il budget ridotto che avrei avuto per agevolare e la velocità che avevo di cui necessitavo per arrivare a Dama, allora che cosa ho fatto? Ho scritto una storia che toccasse la memoria di una persona impegnata nel suo lavoro, un lavoro sociale, dunque comunicativo, ad esempio un attore che fa addirittura satira, ad esempio un attore che facendo satira risulta scomodo al sistema in cui lavora e dunque viene in qualche modo ostracizzato dal potere, viene escluso e lui prova a reinventarsi, a trovare delle soluzioni per sé, riparte da zero, non si piega e scopre insomma questa malattia casualmente, si trova a fare il badante e dice ok, aspetta, la perdita di memoria che poi è perdita di identità in realtà è la chiave del lavoro attoriale, perché un attore non deve avere la sua memoria. Deve entrare in una dimensione diversa, non un personaggio, io non posso portarmi la mia storia, la mia realtà, devo inventarne una. Il malato d'Alzheimer fa la stessa cosa, inventa delle cose ma non per scelta, sono i collegamenti all'interno del cervello che lo portano a creare per essere vivo. E allora io li voglio curare con l'arte, così parte un po' l'idea del film. E dunque il film è la storia di questo Manuel Falco, attore emergente che viene emarginato, e si trova a fare altre cose e vuole curare questa malattia identitaria con l'arte, con quello che lui conosce. E chiaramente c'è una questione identitaria dal punto di vista sociale per l'attore o qualsiasi lavoratore, cioè qualsiasi cittadino, e poi dall'altra parte l'identità di una persona che viene a perdersi nel momento in cui le connessioni cerebrali che riguardano l'aspetto mnemonico non ci sono più. E allora pensare che cos'è la vita, l'Alzheimer ti avvicina molto a questo, manca quella scintilla, tu ci sei, sei tu, ma non sei più tu. Questo è un po' il percorso, quello che mi ha mosso a costruire questa storia. Com'è stata la scelta di attori ed attrici e com'è stato il lavoro con loro? Lavoro fantastico, la scelta autonoma, nel senso che ho avuto piena libertà, ovviamente avendo organizzato in prima persona, e questo era fondamentale. E alcuni li conoscevo anche da anni, Massimo Milani, Michele Cammino, Stefano Antonucci, Gaetano Mosca, insomma tutte persone E alcune hanno collaborato con me a teatro, Anna Mazzantini, Renato Solustri, insomma tante persone che conoscevo, cioè Daniela Stalteri, ci sono tutti attori, e poi Jennifer Mischiati, l'attrice, io non la conoscevo, ma l'ho vista in un film e ho voluto contattarla, lei si è mostrata subito disponibile, ma soprattutto partecipe rispetto al tipo di storia, perché ha avuto questi problemi proprio in famiglia. Tra l'altro non è l'unica tra i vari attori del cast, e dunque li ho portati dentro questa RSA vera, peraltro di qualità, la Quinta Stella, e lì ci siamo un po' amalgamati con la realtà di queste persone e ho cercato di farli conoscere, di farli avvicinare in modo che girando il film potesse uscire fuori questa verità. È un film che ha dell'ironia, ha il tono anche della commedia, però vuole essere concreto, veritiero. L'abbiamo girato lì dentro, legando anche con la presenza proprio diretta e attiva di alcuni dei reggenti della clinica. Che uscita sarà? Sarà un'uscita su Roma e su altre città, e poi da lì farò una sorta di tour arrivando un po' ovunque. Ci siamo organizzati perché deve essere un film che possa arrivare alle persone e nel quale io possa anche spiegare alle persone che cosa abbiamo fatto. Credo che abbia un valore anche questo. Poi chiaramente il film è un'opera che deve parlare da sola ed è bene che questo accada. Però essendo questo tipo di produzione, con questa voglia di sensibilizzare il pubblico, con la speranza che si possano coinvolgere anche i più giovani le scuole, ho voluto costruire questo tipo di distribuzione così capillare, e dunque nelle prime città che abbiamo organizzato, Frosinone, Palermo, Roma, Biella, Sant'Erano in Colle, e poi si va a Perugia, e poi si procede, si va al nord, addirittura a Cagliari, cerchiamo di arrivare ovunque con il film e con il messaggio. I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Abbiamo creato un sito, si chiama discesaliberafilm.it, tutte le informazioni anche sul progetto Rete Prevenzione Alzheimer, che è quella cosa importante. Il film Discesa Libera al cinema da martedì 9 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Sandro Torella. Alla prossima! Grazie, grazie. Con Leonardo Di Costanzo, regista del film Elisa, al cinema da venerdì 5 settembre 2025, ben trovato. Salve, ciao, ciao. Ce lo presenti? È una storia tratta dal lavoro di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, sono due criminologi che lavorano su un'idea di criminologia che non si ferma alla constatazione, che non si ferma lì alla perizia. Loro praticano una criminologia dinamica, per così dire, per certi versi trasformativa, se possibile, cioè nel senso che intervengono nei grandi fatti di cronaca e cercano di vedere se le persone che hanno commesso atti molto violenti è possibile scollarli dall'immagine del colpevole a perpetuità. Ecco, cioè, perché se è possibile lavorare su questi delitti molto presenti nella nostra quotidianità, nella nostra cronaca, no? Generalmente sono delitti fatti da persone normali, che non hanno problemi di marginalità, che non hanno problemi socio-economici, che potrebbero essere la spinta, cioè, pieno di questi delitti, la cronaca ce lo dice. Qui loro lavorano molto su questo e hanno incontrato una donna che 15 anni fa ammazzò sua sorella e la bruciò, e ne hanno fatto 11 incontri con questa persona, e questa persona che diceva di non ricordare niente, pian piano inizia un percorso di consapevolezza di sé fino ad accettare, perché la giustizia non ti chiede di metterti di fronte al proprio delitto. La giustizia legale, mentre loro lavorano proprio sull'accettazione del proprio gesto. E quindi questo è un film che è stato scritto tra me, con Varia e con Bruno Olivero, Varia Santella, interpretato da Barbara Runchi, e Ross Di Sem, che è un attore straordinario, attore franco-marocchino. Com'era nata l'idea di farne un film di questo libro? Perché io ho sempre filmato la colpa, spesso, non sempre, ma quasi sempre. Però la colpa generalmente era come il gruppo sociale, la società si rapporta al portatore di colpa. Cioè, quindi il focus, l'attenzione era sempre, se ti ricordi, di Crusa, sì, ma anche l'Aria Ferma, cioè sempre più sulle relazioni. Per esempio in Aria Ferma noi, a parte qualche delitto del giovane Fantaccini o del vecchio Arzano, non sappiamo che cosa hanno fatto gli altri. Adesso avevo voglia proprio di cercare di guardare in faccia e di raccontare direttamente il colpevole, guardare e cercare di intercettare spiegare il mistero che c'è dietro questi delitti orribili e mostruosi, cercando di non di affarsi dal giudizio e dalla condanna, cercando di sezionarli, no? Cosa ti aveva convinto, cosa avevi apprezzato del testo di partenza? Innanzitutto il punto di vista dei criminologi, cioè dei cosiddetti criminologi che considerano il colpevole non solo per l'atto che ha compiuto, ma nella sua umanità. Nella sua umanità non significa perdonarlo, cioè non condonare niente, significa non fermarsi a guardare quell'atto e cercare se possibile di vedere se c'è la possibilità di recupero. È di cercare di capire come funziona, come si arriva a compiere un atto così violento. E poi il tentativo, la necessità di questa persona, l'autrice di questo gesto, lo sforzo, il dolore per raggiungere una consapevolezza. Questo mi interessava. Che lavoro hai pensato di fare per renderlo in immagini? Innanzitutto ho cercato di toglierlo da un contesto sociale per evitare che la sociologia facesse da schermo, non perché non è interessante, ma perché non facesse da schermo alla cosa a cui io devo puntare, che è proprio l'interiorità dell'autrice del gesto. E quindi ho costruito una specie di carcere, un modello che non si sa bene dove sia, in mezzo all'Europa, che potrebbe essere la Svizzera, e dove i detenuti vivono in delle casupole nel bosco invece di stare nelle celle e godono abbastanza spazi di libertà all'interno là, proprio perché volevo che questa attenzione all'umanità delle persone fosse al centro, anche nel penitenziario, però il centro ancora una volta non è per niente sulla struttura, è solamente un contenitore in questo caso, e quindi l'abbiamo girato in un ipotetico albergo su una montagna del Trentino e nei boschi, quindi siamo molto all'aperto, ecco. Ed anche se è un film di parola, molto parlato, perché è basato molto su questi incontri. Com'è stato il lavoro con la protagonista? Straordinario e bellissimo, perché Barbara conosceva anche poco il francese, abbiamo lavorato, come sai, io lavoro molto prima con gli attori, durante le riprese lavoro molto, in tutti i film che ho fatto ho sempre lavorato molto tempo prima con gli attori, trattandosi di questioni generalmente molto interne nei personaggi. Bisogna molto di lavorare fino a trovare tutte le sfumature, quindi abbiamo lavorato proprio molto molto serio. Abbiamo iniziato a girare all'inizio di marzo e abbiamo iniziato a lavorare ad ottobre con Barbara, poi ci ha raggiunto Rosdi e quindi è come se fosse una necessaria appropriazione da parte degli attori dei personaggi, e che poi al momento delle riprese loro finivano per saperne molto di più dei loro personaggi, perché ne erano di me, molto di più di me, perché ne hanno talmente lavorato tra quel lavoro che abbiamo fatto insieme al lavoro che poi hanno fatto ognuno dei fatti propri, insomma sono arrivato lì e ho scoperto quasi come il primo spettatore l'elaborazione che loro avevano dato di questi personaggi, e quindi sono intervenuto relativamente poco perché ero talmente sorpreso dal lavoro che avevano fatto che tutto mi sembrava molto coerente. Il film Elisa al cinema da venerdì 5 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Leonardo Di Costanzo. Alla prossima. Grazie, grazie a voi. Ciao ciao. Con Andrea Occhipinti di Lucky Red per presentare il film Un film fatto per bene di Franco Maresco al cinema da venerdì 5 settembre 2025. Ben trovato. Ben trovati a voi. Che racconto è questo? È stato un lungo percorso della realizzazione di un film con un regista anomalo, radicale, eretico, periferico come Franco Maresco. Periferico in senso positivo, perché appunto il suo campo d'azione è Palermo e i suoi attori sono collaboratori di riferimento, e l'idea iniziale era quella di fare un film così nello stile di Maresco, così come ha fatto La Macra non è più quella di una volta, o Berlusconi, un omaggio a Carmelo Bene. È iniziato dunque con una sceneggiatura che c'era, dove si raccontava di Carmelo Bene negli anni 70 che incontrava un maestro di scuola che gli parlava di un santo che è San Giuseppe da Copertino, questo santo idiota che volava, che levitava, e dunque ci doveva essere una parte di quello che poi era diventato una sceneggiatura di, per Carmelo Bene, che avrebbe voluto realizzare, dunque questa parte nel 600 in bianco e nero, e poi una parte appunto dell'incontro con questo maestro, ma anche una parte anche della ricerca dell'attore che avrebbe interpretato Carmelo Bene. Insomma, come al solito c'era anche un po' il making del film, cioè la preparazione. Questo progetto, che doveva durare 5 settimane, abbiamo girato 5 settimane, ma Maresco ha girato solamente un terzo del film. Per cui lì c'è stato un primo scontro fra di noi, ci siamo fermati per un periodo, non sapevamo come andare avanti, e poi a un certo punto, dopo l'intermediazione di Umberto Cantone, che è un po' il narratore del film finale, si è raccontato la voglia di fare quel film lì, il tentativo di farlo con quello che abbiamo girato, ma anche il fallimento di quel tentativo. Per cui ci abbiamo messo dietro le quinte, e poi Franco ha deciso di mettere in scena le sue problematiche personali, perché Franco soffre di questa sindrome ossessiva compulsiva a livelli abbastanza estremi, e si raccontano questi episodi che sono anche abbastanza buffi, fanno anche molto ridere. Per lui sono piuttosto dolorosi, faticosi e drammatici, ma sono abbastanza buffi. Ve ne racconto uno per tutti, che anche c'è nel film, che a un certo punto lui si doveva tagliare i capelli, perché Franco è in scena, aveva i capelli lunghi che sembrava un profeta, doveva tagliare i capelli, e lui si taglia i capelli solo con un barbiere, e quel barbiere stava a Londra, e noi non potevamo girare le scene seguenti perché il barbiere non c'era, e poi doveva tagliarsi i capelli solo in una stanza d'albergo e a una certa ora, cioè così doveva essere. E naturalmente le sue ossessioni, le sue fissazioni lo portano anche a fare dei rituali per annullare queste ossessioni o queste paure, che sono complicate, insomma è stato abbastanza complicato, e si racconta tutto questo. Insomma, è un percorso doloroso ma anche molto divertente, molto buffo, il tentativo di fare un film. Qualcuno l'ha definito 8 e mezzo a Palermo, così come 8 e mezzo era stato, insomma, la crisi di Fellini, che non riusciva a fare un film, il suo 8º film e mezzo, ha scomodato il grande Fellini. Maresco, che racconta in qualche modo la sua difficoltà, soprattutto nel mondo d'oggi, nel mondo del cinema commerciale, del sistema del cinema, delle piattaforme, delle televisioni, cioè nelle dinamiche che per lui sono marziane. Come era nato tutto? Facciamo un passo indietro. Come ti eri interessato a questo lavoro? Io collaboro con prima Cipriano Maresco e poi con Maresco da solo da molti anni. Abbiamo cominciato a lavorare insieme nel 98, quando distribuimmo Totò che visse 2 volte, che era quel film bianco e nero, La morte di Gesù. C'era un attore che poi rappresentava Dio e un mafioso nello stesso tempo, e il film, che era Berlino allora, fu dichiarato blasfemo, ed è l'unica volta che a un film non viene dato il nulla osta di visione al pubblico. Cioè neanche quelli maggiori di 18 potevano vederlo, cosa mai successa, era una legge durante il fascismo che non era stata mai applicata e pubblicata in quegli anni. Dopo quel caso abbiamo fatto un documentario su Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Come guaiammo il cinema italiano, si chiamava. Poi abbiamo lavorato insieme a Berlusconi e poi ho collaborato anche a Mamma che non è più quella di una volta. Insomma, c'è un legame lungo, antico. E questo risultato finale che effetto ti ha fatto? Sono molto contento, è uno strano oggetto questo film, però insomma intanto siamo stati scelti a Venezia in concorso, e questo già mi sembra un risultato fantastico. Solo un anno fa pensavamo che il film non sarebbe stato mai terminato. Beh, è buffo perché poi in qualche modo è anche la cronaca reale di quello che è successo, per cui ci sono io che mi incazzo, la mia voce soprattutto, che mi incazzo, che parlo col produttore esecutivo, cioè c'è lui che si scontra con noi, cioè chi ama il cinema dietro le quinte come questo è abbastanza buffo e interessante, anche se appunto c'è un caso estremo. Che tipo di uscita avete scelto? Molto mirata, delle sale che possono accogliere pubblico interessato a questo tipo di film, per cui un'uscita abbastanza stretta, come l'anno scorso abbiamo fatto con Vermiglio, che dopo Venezia siamo usciti molto stretti. Inutile che usciamo con film come questi nei multiplex, non ha nessun senso, per cui cinema di città, cinema che sono abituati a fare una programmazione di autori come in questo caso. Il film è un film fatto per bene di Franco Maresco, al cinema da venerdì 5 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Occhipinti di Lucky Red. Alla prossima! A presto, un saluto! Con Francesco Francesco Bizzarri, ideatore e presidente dell'undicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario, a Milano dall'11 al 14 settembre 2025. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è questo festival. Questo festival celebra il racconto della produzione indipendente del lungometraggio documentario del cinema del reale. Il tema di quest'anno, il passo in più, significa un richiamo a cercare di guardare oltre l'apparenza, fare un gesto simbolico, un atto di volontà, un passo in più, intraprendere il cammino scevro di tutte quelle che sono le facili informazioni mediatiche, istituzionali e dei grandi centri di informazione. Ecco, questo vuole fare il cinema del reale, il cinema documentario, questo vuole fare il Festival Visioni dal Mondo. Quanti sono i titoli scelti e com'è stata la scelta? Sono 37 titoli fra italiani e internazionali e raccontano tutto quello che sta succedendo oggi con occhio obiettivo, le trasformazioni democratiche, la debolezza delle istituzioni democratiche a cui stiamo andando incontro e che stiamo vedendo in diversi paesi del mondo, la fragilità istituzionale e poi anche abbiamo scelto diversi documentari che sono un po' una memoria storica, che raccontano delle storie passate di guerra, insomma brutte storie che devono servire come monito per il presente, per cercare di evitare quello che è già successo e che sembra invece che si ripeta continuamente, l'uomo sembra non dover imparare. Abbiamo poi il tema della crisi ecologica, ovviamente la giustizia sociale e una particolare attenzione anche a Milano, visto che siamo a Milano. Milano diventa occasione di diverse narrazioni, in particolare come capitale della cultura. Abbiamo una bellissima anteprima mondiale su Puccini e anche con un altro documentario che racconta la storia del cabaret da quando è nato in Francia, ma in particolare con molta attenzione alle storie del cabaret milanese, non solo fucina di comicità e di entertainment, ma anche di attivismo, opposizione, qualche volta anche al di fuori della legalità, quindi con testimonianze di tutti i grandi, da Bisio, Iachetti, Cochi, insomma tutti quelli che hanno fatto il cabaret. È prevista la presenza di autori ed autrici? Sono previsti anche momenti di incontro prima e dopo le proiezioni? Sì, il festival presenta solamente anteprime presentate dal regista e qualche volta anche dal protagonista. Abbiamo un documentario di apertura che racconta la storia di Montezemolo e lui sarà presente insieme ai registi, che è comunque una storia intrecciata con alcuni momenti importanti della vita sportiva o pop italiana. Parliamo della Ferrari, quando la Ferrari vinceva, parliamo di Azzurra, parliamo di Italia 90, questo sempre nella ricerca anche di alcune biografie che fanno parte dei temi del festival, di persone che comunque nella storia italiana hanno significato qualche cosa. Come sono strutturate le quattro giornate? Ci sono film che vengono proiettati al Teatro Litta, che vengono proiettati al Cinema Arlecchino. C'è anche una sezione virtual reality che sarà venerdì, sabato e domenica per dei corti o delle experience, come si chiamano, in virtual reality e extended reality, però sempre come tema documentaristico, insieme al Museo della Scienza, in via San Vittore, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Tutte queste anteprime, come dicevo, sono presentate dai registi. C'è poi anche una sezione per i professionisti, quindi a inviti, una sezione industry che si chiama Visione Incontra, dove ci saranno anche dei panel, hanno a che vedere con l'arte, i musei, il documentario o l'archivio, l'utilizzo dell'archivio. C'è una masterclass, ecco, ci tengo a dirlo, importante, sabato a mezzogiorno al Teatro Litta, dove il direttore artistico Maurizio Nichetti intervisterà Luca Lucini, che è un giovane regista milanese ma già molto conosciuto non solo per i film e per la fiction ma anche per i documentari. I riferimenti internet per il programma? www.visionidalmondo.it. Undicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dall'11 al 14 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e presidente Francesco Bizzarri. Alla prossima! Grazie a voi, vi aspetto. Marco Giardina, uno degli organizzatori della seconda edizione di Snark Festival a Bergamo dall'11 al 14 settembre 2025. Ben trovato. Grazie mille. Si parla di documentari, dici un po'. Sì, lo Snark Festival è un parto dell'associazione Si Vivono, che appunto ormai da 10 anni propone Cineforum in provincia di Bergamo. Già l'anno scorso abbiamo deciso di provare ad ampliare la nostra proposta, appunto organizzando un festival di documentari che abbiamo chiamato Snark, riprendendo un poemetto di Lewis Carroll, che è appunto La ricerca dello Snark. Perché questo Snark è una sorta di mostro indefinibile che ci propone una ricerca che però non può essere conchiusa, non può essere definita una volta per tutte. Insomma, la proposta che facciamo è quella di vedere, in questo caso quest'anno, la seconda edizione, 8 documentari che sono vari, di temi diversi fra di loro, che spaziano dagli anni 60 fino al 2015. Alcuni noti, penso a The Times of Harvey Milk, che ha vinto anche il premio Oscar per documentari, altri meno noti, ma comunque pezzi importanti, insomma, dello sguardo del documentario. Noi abbiamo pensato di fare questo festival perché ci sembrava che il genere del documentario fosse in grado di darci uno sguardo sulla realtà più complesso, più stratificato, profondo, senza un intento pedagogico o didascalico, ma ci permettesse di gettare come degli sguardi che poi permettono allo spettatore di arricchirsi in questa ricerca che non ha una fine definita. Com'è stata la scelta? Abbiamo selezionato diversi documentari nel corso della preparazione del festival. Siamo arrivati a appunto decidere di proiettarne 8 nel corso di 4 giornate. Le proiezioni saranno la sera di giovedì e poi venerdì, sabato e domenica ci saranno doppie proiezioni alle 18:30 e poi alle 21. Abbiamo scelto appunto un programma molto vario per cercare di sondare diversi aspetti della realtà. Andiamo per esempio da Times of Harvey Milk, che racconta le vicende di Milk, la figura di rilievo nel quartiere di Castro Street a San Francisco, che diventa un punto di riferimento della comunità gay e che in qualche modo porta per la prima volta la questione dei diritti degli omosessuali sulla scena internazionale e che poi viene assassinato. Abbiamo scelto questo titolo come apertura anche pensando alla collaborazione, questo è un altro punto importante del festival, con in questo caso l'associazione Immaginare Orlando, perché uno degli obiettivi del festival è anche quello di aprire lo sguardo del cinema alle diverse realtà, in questo caso del territorio di Bergamo. Immaginare Orlando, ma ci sarà poi in chiusura del festival, l'ultimo film sarà presentato dalla CGL Bergamo, sarà American Dream di Barbara Kopp. Anche questo film ha ricevuto l'Oscar per il miglior documentario nel 91 e che racconta le lotte sindacali negli Stati Uniti degli anni 80. Poi abbiamo pensato appunto a film più recente, un film algerino, Firassi Round Point, che racconta le vicende di alcuni lavoratori del più grande mattatoio di Algeri e mostra i sogni e le speranze, anche come dire, le disillusioni di questi lavoratori. Un punto importante insomma del festival è la proiezione che sarà sabato 13 alle 18:30 con la presenza del regista Franco Piavoli, che appunto presenterà il suo primo documentario lungometraggio, Il pianeta azzurro. E anche questo appunto è una proposta che facciamo agli spettatori di Bergamo, appunto saper guardare film molto diversi, perché appunto Il pianeta azzurro è una sorta di sinfonia visiva senza una vera trama, ma insieme appunto a film che invece hanno una struttura narrativa più accattivante, anche più immediatamente d'impatto, come potrebbe essere l'altro film di sabato 13 settembre, Hoof Dreams, presentato dal CSI di Bergamo, che racconta le storie di 2 ragazzi dei quartieri disagiati di Chicago, cercano di arrivare all'NBA e quindi seguono un po' le vicende dello sport con uno sguardo che però è più ampio e più stratificato. Tenevo poi a sottolineare la serata di venerdì dalle 21 con la proiezione di 2 film che abbiamo trovato e siamo molto contenti perché è la prima volta che vengono proiettati in Italia. Sono i primi 2 film della cosiddetta trilogia papuana dei registi Anderson e Connolly, e che raccontano l'incontro tra dei cercatori d'oro australiani negli anni 30 in Papua Nuova Guinea. I registi hanno trovato dei filmati risalenti a quell'epoca e poi li hanno mostrati 50 anni dopo agli autoctoni discendenti di quei papuani, cercando di capire gli effetti di questa colonizzazione. Questo nel primo film, First Contact. E a seguire ci sarà la proiezione del secondo della trilogia papuana, Joel e Ice Neighbors, che mostra le vicende del figlio illegittimo di uno di questi appunto esploratori, colonizzatori, che nel frattempo ha assunto in qualche modo la postura del padre biologico, quindi uno sguardo da imprenditore occidentalizzato, alle prese con una piantagione che però si inserisce ovviamente nel contesto sociale delle tribù papuane. Senza dimenticare l'ultimo film che non ho citato, pur La Suite du Monde, che è un film canadese del 62 che è stato spesso identificato come uno dei film pionieri del dark cinema, quindi film che racconta di una caccia al beluga in un'isola del Canada, mostra appunto le vicende di un villaggio che su quest'isola nel fiume San Lorenzo decide di rimettere in scena una caccia a questo beluga, riportando gli usi e i costumi degli anziani, come dicono loro, in una sorta di contemporaneità che però per noi è lontana nel tempo, perché appunto il film è del 62. E quindi insomma una scelta poliedrica, che è quella insomma che muove lo sguardo dello Snark. I riferimenti web per il programma? Il sito è quello dell'associazione sivivono.com. Nel sito poi c'è una sezione dedicata allo Snark 2025. Il festival si trarrà al Cineteatro L'Ottagono. Importante anche il fatto che sia tutto gratuito. Questo è uno degli aspetti fondamentali per l'associazione, cioè la possibilità di partecipare alle iniziative, in questo caso appunto del festival, ma in generale di tutta l'associazione, gratuitamente, in maniera libera, cercando di costruire un punto di vista collettivo che non precluda a nessuno l'accesso a questo linguaggio. Seconda edizione di Snark Festival a Bergamo dall'11 al 14 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli organizzatori, Marco Giardina. Grazie mille. Con Giulio San Giorgio, direttore artistico della 24esima edizione de I Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, a Trieste dal 12 al 17 settembre 2025. Ben trovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è. Il Mille Occhi è un festival fondato da un grande storico e critico del cinema italiano, non solo, Sergio Germani, un critico che in qualche modo ha aiutato a scoprire nel corso del tempo e a riscoprire delle zone, delle aree, dei periodi, dei movimenti del cinema, soprattutto italiano, che in qualche modo erano sommersi. E questo festival è un po' fatto a misura della sua figura. Sergio continua a essere il presidente dell'associazione Anno Uno, che produce questo festival, ed è un festival che si occupa di scandagliare la storia del cinema per costruire dei percorsi, per tracciare delle linee, per unire dei punti in maniera non banale, ma invece fertile. È secondo quell'idea che programmare dei film insieme è già un atto critico. E quest'anno abbiamo tante sezioni. Nel complesso, quanti sono i titoli presentati? Si tratta di 5 slot al giorno, che però possono contenere uno o due film l'uno per 6 giorni, quindi si tratta di 40-45 titoli. Ci illustri la strutturazione? Ci sono diverse sezioni. La prima è quella dedicata a Leonardo Sciascia e il cinema, dove presentiamo 3 film che hanno adattato Sciascia per il grande schermo, seguendo quella ormai abitudine di trattare questo rapporto tra grandi romanzieri, tra grandi scritture e il cinema. Quest'anno avremo ciascuno il suo di Elio Petri con Gianmaria Volonté, Il Consiglio d'Egitto di un cineasta un po' dimenticato che amo molto, che è Emilio Greco, e poi Il giorno della civetta di un regista friulano, quindi orgoglio regionale, che era Damiano Damiani. Poi c'è Chino Basaglia, che è una sezione che si occupa in qualche modo di riaffrontare il pensiero e l'insegnamento di Franco Basaglia partendo da dei film, dove ci saranno film da Frederick Wiseman a un ritratto intervista di Marco Bellocchio. C'è il concorso internazionale Cinema sul Cinema, dove ogni anno, questo è il secondo anno, proponiamo dei film che si prendono cura, un po' come cerchiamo di fare noi, della storia del cinema, la rileggono, e qui si va da ritratti di Enrico Romero e David Lynch a un film assurdo di un grande regista completamente folle filippino che si chiama Kevin de la Cruz, che fa una sorta di percorso all'interno del cinema erotico filippino degli anni Ottanta, commentato dalla voce Inai di un regista morto, di un cinema invece lontano da questo cinema erotico. Poi c'è una carta bianca al nostro fondatore, che appunto Sergio Germani, che mette insieme in un programma con questi film che dialogano l'uno con l'altro Alfred Hitchcock, Leo McCary oppure ancora John Ford. C'è una piccola sezione di omaggio al cinema della diaspora armena, che continua un po' la nostra ricerca sul cinema che tratta la diaspora armena, e poi ci sono un paio di chicche che ritornano sui passi di percorsi che abbiamo fatto precedentemente, che sono quelli legati a Dino Buzzati, con l'anteprima di un film che è stato presentato fresco ora alla Mostra del Cinema di Venezia, che è Orfeo di Virgilio Villoresi, che è una sorta di grande fantasmagoria tratta da poema a fumetti di Buzzati, dove si inventa veramente un cinema che sta tra Méliès e gli animatori ciechi, oppure ancora Jean Cocteau, e poi un recupero, un restauro per omaggiare Italo Calvino, cui avevamo dedicato una retrospettiva, che è Il Cavaliere Inesistente, appena restaurato, che è un altro film a tecnica ibrida firmato da Pino Zac, un film accessibile a tutti e molto molto interessante. Sono previsti momenti di incontro prima o dopo le proiezioni? Sì, ogni proiezione verrà anticipata da una presentazione, ci saranno degli ospiti, e l'ospite più importante, a cui teniamo tantissimo, è Zelimir Zsilnik, che è un regista, uno dei pochi superstiti di un grande periodo del cinema slavo, che era L'Onda Nera, e di cui presentiamo tre film, di cui l'ultimo è E.T. Plus, in anteprima italiana, e lui è veramente un personaggio incredibile, è una delle figure più importanti del cinema europeo e sarà nostro ospite. I riferimenti web per il programma? imilleocchi.com. 24esima edizione dei Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti a Trieste dal 12 al 17 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giulio San Giorgio. Alla prossima! Ciao Federico e buona giornata a tutti, grazie. Con Vincenzo Vita dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare la nuova stagione dell'Ape Rossa. A Roma la Villetta Social Lab dal 15 al 19, poi dal 22 al 26 settembre 2025. Ben trovato! Grazie a voi e viva la radio, io sono un appassionato. Eccoci qui all'Ape Rossa, quest'anno è davvero un'edizione molto bella, in un posto anche molto accogliente, la villetta. Cosa prevede il programma? L'Ape Rossa ha varie cose, non solamente dibattiti e proiezioni di film, ma anche il laboratorio CineLab Kids, laboratorio per ragazze e ragazzi, curata sempre dall'archivio. Poi ha un'iniziativa ed è Esplora, cioè passeggiate nel quartiere con punti di riferimento, proprio QR code nelle varie aree del quartiere. Per esempio, il primo giorno c'è la passeggiata a cura dell'associazione Marmorata 169, che gestisce questa parte del programma. Pasolini Ostiense Ultimo Atto, cioè si ricorda alla vigilia ormai dell'anniversario dell'assassinio di Pasolini, che Pasolini, prima di andare all'Idroscalo, passò in un ristorante famoso, il Biondo Tevere, proprio sull'Ostiense. Poi abbiamo la presidente Cristina Giuliani dell'associazione Tormar Arte, David Di Abu Vecchiato, artista, relatore e curatore di Muro, Museo di Urban Art di Roma, del progetto GRA Art, Amedeo Ciaccari, presidente del municipio di Roma 8, e Giorgio De Finis, che modera, direttore del Museo delle Periferie, azienda speciale Padexpo, un direttore di museo che mi ha sempre colpito perché è anomalo rispetto al mainstream, cioè lui considera i musei come luoghi aperti, senza una programmazione statica e definita con un catalogo una volta per tutte. Il Cinegiornale della Pace, l'asse Parigi Bono, intervista con Jean-Paul Sartre e proiezione di Pugni in Faccia. In tutte queste serate ci sono anche degli spottini curati da me, 3 minuti su argomenti di attualità. Poi vorrei ricordare martedì 16 un'importante iniziativa, la presentazione del libro Genocidi di Riccardo Nuri, Amnesty International, e Antonio Varghese. Modero sempre io, e poi c'è il giornale della pace e la tortura del 63, proiezione dei diari di mio padre. C'è mercoledì 17 settembre una vera e propria chicca, e cioè a Petalk, immagini migranti, con la presenza del regista Samir, che ha girato un film di grande interesse, fu proiettato anche alla Camera dei Deputati recentemente, La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri, che è un film che racconta la storia dell'emigrazione con un occhio più critico e moderno rispetto agli antichi cinegiornali. C'è anche il produttore Gianfilippo Pedote, e modera Sarita Frattini, che è un'attivista umanitaria che ha collaborato con l'archivio già altre volte. E poi Trieste è bella di notte di Andrea Segre, Stefano Collizzolli, Matteo Calore. Poi vorrei ricordare un altro appuntamento importante, sempre nella fascia Up & Talk, che sarebbe la parte talk della Perossa. Giovedì 18, il movimento La Battaglia dai Pionieri ad oggi, parliamo dei diritti LGBT+, che sono uno dei grandi argomenti della conquista democratica di questi anni, anzi forse se l'Italia oggi sul piano dei diritti è un po' più avanti di qualche anno fa, si deve anche proprio a questi movimenti. E mi fa piacere ricordare che modera Marilena Grassadonia, che per anni ha diretto l'associazione delle famiglie LGBT+, e che con Mario Colamarino e Stefano Casi darà luogo a una discussione di grande interesse. Con venerdì 19, che invece sarà interessantissimo per chi ama il calcio popolare, e cioè non quello legato al mercato, con l'intervento di C.S. Lebowski, scuola di calcio popolare di Torpedo, società sportiva dilettantistica Atletico San Lorenzo. Sono due esperienze di grande interesse, ed è bello anche il film Ragazzi di Stadio di Daniele Segre, che viene poi presentato la sera. E qui veniamo invece alla seconda parte. Ecco, vorrei ricordare il venerdì 22 settembre un dibattito di enorme rilievo anche di attualità con Gianrico Carofiglio e Nicola Fratoianni sul tema della sicurezza, conflitto, politiche securitarie. Siamo dentro ormai un percorso di regime. Il decreto diventato legge sicurezza è uno dei punti più bassi rispetto all'attacco alla democrazia costituzionale in Italia. Poi un'altra chicca di questo programma, la presentazione di un libro di un giovane filosofo giapponese, Saito Kohei, che ha pubblicato un libro, Il capitale nell'antropocene, con la presentazione insieme alla filosofa Teresa Numerico di Luciana Castellina, che è un po' la scopritrice italiana di questo intellettuale giapponese relativamente giovane, che indaga su un Marx mai sentito e mai letto, e cioè quel Marx che va dalla fine del primo libro del Capitale alle altre sue performance, ma non poi riorganizzate editorialmente da lui, ma da Engels, cioè il secondo e il terzo libro, e cioè una serie di scritti in cui c'è un Marx ambientalista che fa i conti col rapporto tra uomo e natura. E poi c'è il film L'antropocene, l'epoca umana. Il mercoledì 24 settembre, presentazione del libro Vita nell'oro e nel blu di Andrea Pomella, con l'autore ci sono il regista Franco Angeli e Micaela Becchis, che è una studiosa, critica e segna storia dell'arte, che si occupa molto di arte di avanguardia. E la sera c'è la proiezione di un bellissimo film di Franco Angeli, Lo spazio inquieto. Poi c'è anche un'altra chicca, alle 21.30 la proiezione Film Studio Mon Amour Tony D'Angelo, a cui l'archivio ha collaborato con materiali di repertorio, che è stato anche presentato a Venezia. E poi cito ancora una volta Le passeggiate a cura di Marmorata 169, Donne contro con Elsa Morante. E il giovedì 25 settembre poi avremo la presentazione del libro Un corpo per tutti di Sonia Bergamasco e La parola femminista di Vanessa Roghi, con la moderazione di Ilaria Fraioli, che tra l'altro è una famosissima montatrice, nonché componente del consiglio di amministrazione dell'Ambo. La sera, tra l'altro, ci sarà il famoso cinegiornale della pace del 63, Gli intellettuali e la pace, Marzabotto, 20 anni dopo. E poi andiamo al gran finale, venerdì 26 settembre, in cui spicca la presentazione del Gaza International Festival for Women's Cinema, in cui ci sono interventi di Graziella Bilsenschein, presidente di questo festival, e Chiara Cruciati, giornalista vice direttrice del Manifesto, Vilma Labate, regista, Monica Maurer, regista, che è stata per anni componente del consiglio di amministrazione dell'archivio, Dalal Suleiman, attrice, Jasmine Trink, attrice, regista e giurata del festival, vabbè, il sottoscritto che ormai è un po' come il più prezzemolo, e modera la bravissima Milena Fiore dell'archivio, che segue con una passione incredibile tutto ciò che attiene alla Palestina e in generale alle lotte dei popoli espressi. Ho tralasciato tante cose, quest'anno è Garbatella, speriamo già dal prossimo anno di poter tornare a utilizzare il cortile della centrale Montemartini, dove c'è il museo e dove c'è anche l'archivio, che ora ha in corso i lavori di ristrutturazione. La nuova stagione dell'Ape Rossa a Roma, la Villetta Social Lab, 15 e 19 e 22 e 26 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Vita dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Alla prossima! Grazie! Con Fabio Meloni di Cinema Mundi per presentare Lo spirito del tempo, l'arena di fine estate, dal 15 settembre al 5 ottobre a Roma, al Parco Caduti del 19 luglio 1943. Ben trovato. Allora, ti ringrazio innanzitutto per avere questa possibilità di presentare questa iniziativa che fa parte, diciamo, di Roma Creativa 365, ha avuto il contributo di Roma Capitale, il bando ex bando Estate Romana, insomma. E un'arena, diciamo, in qualche modo che attraverso il cinema permette di parlare di cultura e società e anche storia, diciamo, degli ultimi 100 anni, perché partiamo con Diritti contro il cielo, un mediometraccio di Fazzetti, che verrà a presentarlo, a proporlo ovviamente, che parla appunto del tema caldo di oggi, di Gaza, della Palestina. Insomma, siamo molto contenti di aprire con questo film, perché ci dà pure modo un po' di parlare appunto con Niccolò di quello che sta accadendo, no? È una cosa, insomma, che è molto attuale e soprattutto, anche se è molto attuale, in realtà ormai so almeno dal 1948 appunto che è attuale, no? Sì. Ecco. Nel complesso quanti sono i film presentati? I film, praticamente noi abbiamo 21 giorni di proiezioni, incontri, di cui 3 giorni sono dedicati a dei festival di cortometraggi, quindi 3 giorni in cui saranno veramente di riferimento e per tutti i giovani autori, con degli incontri anche sul cinema, sull'intelligenza artificiale, sul service tecnici, attori, tutto una cosa molto indipendente. Questi 3 giorni sono gestiti dagli organizzatori del Free Aquila Festival e dal Circolo Gap di San Lorenzo e dal Crocevia per il Festival delle Terre. Quindi sarà una vetrina, diciamo, di questi 3 festival per 3 giorni. Ma avremo film di tutti i tipi, per esempio il 16 settembre avremo subito Tutta la bellezza e il dolore, che è un film bellissimo e ci permetterà appunto di parlare del tema, sia ovviamente di quello che succede ancora adesso attraverso la proposta di farmaci per combattere dipendenze e poi diventi dipendente da questi farmaci, no? e quindi sono, o altrimenti abbiamo altri temi importanti come questo tipo l'americano di Costa Gravas e ci permetterà di parlare dell'operazione Condor. Sono dei temi importanti della società che ci circonda e che ci permette comunque anche a generazioni, nuove generazioni, di vedere quello che è successo, quello che ha fatto il cinema di importante durante questi appunto ultimi 100 anni, attraverso uno sguardo che è appunto Spirito del Tempo, che riprende sia ovviamente il libro di Edgar Morin e anche, diciamo, proprio il senso dell'essere come uomo attraverso il cinema. E per noi era importante, insomma, era una cosa che ci tenevamo tanto, di avere uno spazio per parlare di questo, insomma, all'aperto, poi in un luogo informale, insomma. Ecco, poi non so a dire, ovviamente noi faremo Buñuel, Truffaut, appunto Costa Gravas, ma anche film più recenti, diciamo tipo Io sono ancora qui, che l'anno scorso ha vinto il festival come l'Oscar come miglior film straniero, o altrimenti il film di Roswell, molto bello, Il seme del fico sacro, insomma, ma andiamo anche a riprendere vecchi classici, come ho detto, che sono film, insomma, che sono stati persi, no? Fahrenheit 451 è poco conosciuto dalle nuove generazioni, e quello ci permetterà anche di affrontare il tema appunto della cultura oggi, della cultura alta, che poi una volta non c'era tutta questa differenza di cultura alta e cultura bassa. Oggi molte volte per cultura si intende spettacolo, vanno a banalizzare invece alcuni momenti culturali come momenti, diciamo, relegati a un terzo, quarto ordine. Invece la cultura è necessaria, è una necessità dell'uomo, e l'uomo senza cultura è morte, e questo è quello che diceva Cicerone, che nonostante non era uno dei miei uomini politici di riferimento, perché sono molto più vicino a Catilina, però ciò nonostante è vero che l'uomo senza cultura è morte. Le proiezioni saranno tutti i giorni, e ogni giorno una singola proiezione? Sì, una singola proiezione, tolto il giorno che appunto ci sarà come riferimento, ci saranno come riferimenti i festival dei cortometraggi. In quel caso ogni giorno ci saranno 3 cortometraggi. Vorrei dire anche che facciamo delle proiezioni anche per le famiglie, faremo Flow, Robot Selvaggio e Buffalo Kiss. In modo che sono film che trattano sempre temi dell'inclusione, però attraverso i film d'animazione, quindi quello ci permetterà anche di dare la possibilità alle famiglie di avere uno spazio per vedere, comunque, film sempre di un certo livello. I riferimenti web per il programma? Allora, abbiamo un sito che è quello proprio dell'iniziativa, che è www.spiritodeltempo.it, e poi abbiamo il riferimento attraverso www.cinemagra.it, che rimanderà anche al sito, al sito appunto dell'Arena, con tutti gli appuntamenti. In linea di massimo inizia tutto quanto alle 8, ed è all'inizio, c'è la presentazione del film, e poi un incontro sui temi trattati dai film, insomma. Quindi non sarà solo un'arena che si vedono i film e basta, o altrimenti una presentazione, sarà un'arena che noi ci auguriamo che serva anche come luogo di confronto attraverso il cinema. Lo Spirito del Tempo, l'arena di fine estate a Roma, alla Parco Caduti del 19 luglio 1943, dal 15 settembre al 5 ottobre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Fabio Meloni di Cinema Mundi. Alla prossima! Grazie.